America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. La violenza in Libia continua, sparatorie, attacchi ai pozzi, alcuni pozzi sono stati incendiati, gli Stati Uniti continuano a chiedersi cosa devono fare, la comunità internazionale, devo dire, continua a chiederselo. Sentiamo John McCain. I want to emphasize my opposition to US ground troops in Libya because I think that would... In questo momento è difficile immaginare l'apertura di un nuovo fronte, però dobbiamo inviare un messaggio molto chiaro ai piloti dei caccia libici. Fate attenzione, perché se continuate a volare, prima o poi qualcuno vi tirerà giù. Sembra un po' un'anticipazione della no-fly zone, su cui Hillary Clinton ha avuto qualcosa da dire. And we think it's important that the United Nations make this decision, not the United States. And so far the United Nations has not done that. Come avete sentito, la posizione di Hillary Clinton è molto chiara. La no-fly zone può funzionare, ma funzionerà soltanto nel momento in cui ci sarà un'autorizzazione delle Nazioni Unite. Dunque lo sforzo diplomatico americano procede. L'idea è che ci siano dei paesi arabi pronti ad approvare una mozione delle Nazioni Unite per la no-fly zone in Libia. Ci sarà una riunione sabato della Lega Araba che discuterà proprio di questo e cercherà di prendere una posizione chiara. Cosa significa questo? Beh, che probabilmente per i prossimi giorni non vi saranno ancora decisioni importanti. And to send a clear message to those around Gaddafi who continue to enable this horrific attack on his own people, that they too will be held accountable if they commit crimes against the Libyan people. E siamo comunque allo sviluppo più interessante nella politica americana, perché Hillary Clinton ha annunciato ieri che si incontrerà qui in America e poi in Francia con i capi degli insorti libici. Devo dire, una notizia piuttosto importante, una decisione che così vuole cominciare a identificare un gruppo di comando cui dare credibilità in alternativa al colonnello Gheddafi. E il problema è che finora gli insorti sono sembrati disordinati e più votati all'improvvisazione, alla guerra di bande, ricordiamolo, molti vengono da realtà tribali, che alla costruzione di un solido gruppo sia politico che militare da contrapporre a Gheddafi. E mentre dava l'annuncio, la Clinton ha ribadito la sentenza per il leader libico, una sentenza non dissimile da quella che aveva già dato la settimana scorsa il presidente in persona, Barack Obama. Se ne dovrà andare. E la dichiarazione della Clinton verbatim: siamo con il popolo libico, sono loro ad affrontare gli attacchi, le bombe, le pallottole. L'abbiamo sentito, le registrazioni di queste bombe, di queste pallottole in apertura di trasmissione. E siamo qui, dice la Clinton, per dire che Gheddafi deve andarsene, e adesso. E la strada a me sembra segnata. Abbiamo visto quanto ha cercato di resistere Saddam Hussein. Ha resistito anche quando altri leader stranieri gli hanno consigliato, detto di andarsene, ma fino all'ultimo non ha creduto che l'America attaccasse, non lo ha creduto per due volte addirittura, e temo che Gheddafi si trovi in una situazione analoga, rifiuta l'idea che possa perdere il potere, eppure per quel che sentiamo non soltanto negli Stati Uniti ma anche in Europa, abbiamo visto che il presidente francese Sarkozy ha preso decisioni analoghe a quelle degli americani, il suo destino sembra segnato. I just think the important dimension here are logistic. Right. And I think the regime has more logistical resources in terms of the equipment they have. The first line equipment in anywhere in Libya is held by the regime forces. La conferma che si deve accelerare, anche giunta da un'audizione ieri al Senato di James Clapper, che è il direttore dei servizi di coordinamento di tutte le agenzie di spionaggio, una di queste nuove istituzioni nate dopo l'attacco dell'11 settembre. Bene, in questa sua audizione Clapper ha detto che le forze che restano al fianco del colonnello Gheddafi sono armate, sono sicuramente meglio armate e hanno più risorse logistiche di quelle dei ribelli, e dunque potrà resistere Gheddafi a lungo, se non succederà qualcosa, se non interverrà qualcosa a cambiare la situazione, per esempio armare gli insorti. Ma la forza di Obama è alla fine una forza che sta nei soldi, e i soldi poi a un certo punto finiscono. C'è stato ieri un interessantissimo articolo sul New York Times in cui si calcolava come Gheddafi potesse avere accesso a questi fondi stanziati nella banca centrale libica, e si dice che dalla sua il colonnello ha un patrimonio in contanti di decine di miliardi di dollari, e ci sono camionette che dalla banca centrale libica vanno verso le caserme più fedeli, per esempio quella di Bab Azizi, oppure verso la sua residenza, e lì Gheddafi in contanti paga questi mercenari, alcuni dei politici che gli sono rimasti fedeli, il minimo si dice $1,000 al giorno, però alla fine di una settimana di lavoro qualche mercenario può incassare fino a 10.000 e persino $100,000 se si tratta di un ufficiale in grado di garantire il coordinamento di pattuglie, fino a 50-100 uomini. Sembra che vi siano fra i 3 e i 4.000 mercenari africani, oltre ai militari delle forze libiche, rimasti fedeli al regime. Questo è il punto di forza di Gheddafi. Certo, non è un punto di forza che poggia sull'idealismo e sulla voglia di cambiare. Gary has distinguished himself as one of our nation's most respected and admired public servants. Gary Locke, il segretario al commercio, sarà il nuovo ambasciatore americano in Cina, lo ha detto il presidente Barack Obama, lo avete sentito. Locke, un personaggio molto interessante, di Seattle, Washington State, è stato un imprenditore ed è un sino-americano, sarà il primo cinese americano ad essere ambasciatore in Cina. Rand Paul, il senatore dei Tea Parties del Kentucky, ha votato con i democratici contro la proposta dei suoi compagni repubblicani che volevano tagliare $60 miliardi dalle spese, e ha votato contro perché secondo lui la misura era troppo leggera. Altri tre repubblicani hanno votato con lui. Republican Party, the particular Tea Party, is fanatically involved. Restando in tema dei Tea Parties, quello che avete sentito è stata una registrazione, un video segreto che è stato girato riprendendo un executive della National Public Radio, che è finanziata dal governo americano. Ebbene, questo funzionario Ron Schiller parlava con dei possibili donatori e davanti alla domanda sui Tea Parties si è lanciato in un attacco contro i Tea Parties, dicendo che sono dei fanatici che intrudono nelle vite personali della gente, che stanno rovinando sicuramente la cultura politica del paese. Ecco, il fatto è che non sapeva di essere registrato, non sapeva che certi sceicchi arabi erano semplicemente dei Tea Parties men travestiti che gli avevano preparato un trabocchetto. Risultato: il filmato è andato in giro creando scandalo. Alcuni esponenti dei Tea Parties hanno chiesto immediatamente le dimissioni di Schiller, soprattutto hanno chiesto di tagliare i fondi pubblici a una stazione pubblica che dovrebbe essere imparziale e che invece chiaramente non lo è. Chi ci è rimasto in mezzo, come vi dicevo prima? Vivian Schiller, l'amministratore delegato di recente nomina della NPR, che ha rassegnato le dimissioni. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Jay-Z, il grande rapper, ha messo all'asta due biglietti per assistere con lui a una partita dei Knicks al Madison Square Garden, e ci sarà sicuramente una battaglia furibonda, colpi di migliaia di dollari. Il ricavato andrà in beneficenza a una scuola per bambini con difficoltà di apprendimento. Dedichiamo dunque a Jay-Z per questa sua opera filantropica la canzone del giorno. Ascoltiamo il suo ultimo album Empire State of Mind, che ha vinto il Grammy per miglior disco dell'anno. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.